Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa sera pensavate di non sentirci e invece eccoci qua. Buonasera a tutti, benvenuti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto, l'emittente che trasmette dal Veneto per tutti i veneti e non solo, anzi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dalle loro automobili, dalle loro case, dal loro computer, perché la nostra radio, se avete voglia di ascoltarla, si può ascoltare anche in streaming audio. Allora, una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e assieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Ottima serata stasera, una serata di vera musica. Una serata di vera musica perché abbiamo degli ospiti davvero particolari in questa serata, vero Maurizio? Decisamente, siamo proprio, io sono nella fossa dei leoni stasera. Nella fossa dei leoni, bello. Allora sentiamoli subito ringhiare, si può dire così per i leoni? Sì, sì, certo. Beh, si può dire, ecco. Così, ruggire. Ruggire, eccoli qua. Ci hanno corretto subito, ci mancava il termine giusto. Quindi nella fossa dei leoni ci sono i Former Life. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera, buonasera a buonasera. Tutti. Allora salutiamo Andrea De Nardi alle tastiere, poi ancora Matteo Ballarin, chitarra elettrica, acustica, classica, eccetera. Manuel Smagnotto alla batteria. Eccolo qua, e poi ancora Carlo Scalette, basso e ciao. Voce. Allora, The Former Life, innanzitutto avete fatto buon viaggio? Un ottimo viaggio, grazie. Un ottimo tutto viaggio. Bene, tutto siete, liscio. Non abitate molto lontano da qua, assolutamente veneti, no? E quindi... Io in realtà non ho fatto un... Quando guida sì. Andrea De Nardi non è mai un buon viaggio. Si rischia sempre. E invece siamo arrivati. Parola di batterista, esatto. Quindi si raccomanda sempre di non prendere le buche, altrimenti la batteria si fa sentire anche quando nessuno la batte, no? Si dice. Però vabbè, in autostrada tutto è filato liscio. Allora i Former Life arrivano da Treviso Nord in particolare, da dove? Sì, diciamo il nucleo centrale del gruppo è Vittorio Veneto, quindi insomma provincia di Treviso, siamo tre quarti di Vittorio Veneto. Sì, e poi visto che siete in quattro. Certo, sì. Certo. E poi c'è il nostro Manuel, quindi il batterista, che è di Pramaggiore. Sì. Che comunque nel veneziano non lontanissimo dalla niente. Zona, quindi vi molto può, comodo anche, vi può raggiungere facilmente, certo. Ecco. Bene, e allora The Former Life si comincia sempre così, dicendo: ma come mai con tanti nomi che c'erano in giro proprio The Former Life? Beh, guarda, posso rispondere io? Vai, sì. Vai. Diciamo, The Former Life, che è appunto tradotto in italiano è la vita precedente, la vita passata, è un po' un gioco che io e Matteo abbiamo pensato di trovare per definire la nostra musica, no? In quanto noi siamo in un certo senso legati a un'altra vita, musicalmente parlando. Quindi noi un giorno stavamo componendo, no, una canzone, ci siamo guardati e io gli ho detto: ma pensa a te, se solo fossimo nati, non so, 30-40 anni fa, cosa sarebbe successo? E poi ci siamo guardati di nuovo: ma se fossimo veramente nati 30-40 anni fa, in un certo senso può essere successo. E quindi noi diciamo, facciamo riferimento a un periodo musicale molto, molto bello, insomma, che tutti noi conosciamo, quello degli anni 70, per esempio, che è quello che ci ha ispirato probabilmente maggiormente nel nostro percorso musicale insieme, in questa collaborazione pluridecennale. Adesso i nostri ascoltatori avranno anche modo di sentire già un primo brano in studio per capire quella che è, diciamo, la vostra manifestazione artistica. Nel disco ci sono vari elementi per capire da dove arrivate e cosa volete fare anche nel vostro futuro. Sì, no, quindi certo, non solamente certo. Di Former Life parliamo, ma anche di Future Life. Anche di Letter Life, cioè la vita anche seguente. Anche di Letter Life, esattamente, quindi della vita certo. Seguente. Però intanto fermiamoci qua e ascoltiamo un pezzo. Abbiamo scelto la traccia numero 5 che si intitola The London Rain. Benissimo, London poi torneremo a commentarla insieme, assieme ai Former Life, qui all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito.

Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato per intero questo bellissimo brano, questa bellissima suite musicale e anche cantata naturalmente, London Rain. A cantarla e suonarla sono i Former Life, che sono qui stasera per presentarci il loro lavoro che si intitola Electric Stillness. E allora, ancora buonasera ragazzi e benvenuti in frequenza. Ribuonasera. Allora, questa London Rain, questa suite, come si diceva, formata da tre parti. La prima parte, il declino di Atlantide, e poi a seguire le stalattiti dell'anima e il giudizio finale. Tre titoli davvero importanti. Come adesso l'abbiamo ascoltata in inglese, però ci sarà modo anche di vederla, poi ricorderemo anche il sito da dove si possono ricavare altre informazioni con i testi tradotti anche in italiano. Ma vogliamo riassumere un attimino il significato di questa, di questa musicalità e di questa canzone? Sì, sicuramente. Dunque, il testo intanto come diciamo concetto è un testo sul terrorismo, quasi sulla paura anche, che io tra l'altro ho concepito e poi anche scritto in seguito a degli attentati che ci sono stati purtroppo nel 2005 a Londra, dove io ero. E questo spiega il titolo, Pioggia di Londra. E a livello testuale io posso dire una cosa che vale poi per tutto il disco. I testi sono, diciamo, scritti, composti a metà tra la formula poetica, quindi anche la libertà delle strutture, dell'espressione, della metrica, e diciamo il testo a soggetto, quindi io tratto comunque uno spunto, un tema, che però viene posto in modo molto libero, così anche da lasciare poi all'ascoltatore la libertà di interpretarlo, di farlo proprio, quindi non si impone un concetto in modo unico e assoluto. Questa è una cosa che a me piace molto, così lasciare una possibilità di interpretazione. In questo caso specifico c'è anche appunto un senso del brano, ed è quello che vi ho appena spiegato, però è tutto raccontato come una specie di storia, no? Un po' visionaria, che è questo racconto della persona che scrive sul Corano, quindi chi vorrà leggere i testi scoprirà anche questa storia. In particolare c'è scritto in uno dei testi, perché sono stato curioso, li ho letti tutti, c'è una nebbiosa inquietudine che costrinse tutte le colombe bianche ad atterrare. E fece sì che il declino di Atlantide fosse assorbito in fretta, quindi proprio l'esplosione che c'è stata. La nebbia era quella, il fumo ovviamente delle esplosioni. Io ero lì appunto in quei giorni terribili e sono stato anche poi a vedere il posto in cui è successa questa tragedia. In realtà erano più posti, erano tre. E quindi questa cosa della nebbia è un po' una metafora sia di Londra, come no? Molto nebbiosa, e anche del fumo, insomma, di quel momento. Tu hai parlato del discorso del testo molto libero. Sì. La musica è libera, assolutamente senza confini, in libertà totale. Sì. Noi riflette molto. Noi vogliamo che la musica, e intanto sia la musica che i testi, possono suggestionare, dare un'emozione. Cioè non c'è l'obbligo di un testo, di una parola, anche un momento strumentale. Questo l'abbiamo anche poi raccontato in un'intervista che ci hanno fatto. Per noi le parti strumentali parlano da sé, spesso non hanno bisogno di, ok? Però se c'è anche il testo che poi dà un'ulteriore conferma e appunto un racconto, meglio ancora, così insomma è il connubio perfetto. Quindi la struttura della suite è nata da quella, insomma, sì. Beh, la suite nasce in questo caso dal testo, io avevo già in mente queste tre parti di questo racconto, e poi, come ti raccontavo prima, con Matteo è stato molto naturale mettere insieme delle parti che abbiamo composto, insomma, due o tre anni fa, in momenti diversi, certo. Citavi questa libertà che sta totale, dietro questo disco. Libertà totale, una specie di jam session al pezzo, secondo me. Non c'è una chiusura, potete andare liberi. Sì. Secondo me. Matteo, vuoi dire qualcosa? Comunque? Dimmi, Matteo. No. A proposito della libertà totale che avete nell'esecuzione del pezzo. Sì, già il fatto che comunque queste tre parti che compongono il brano siano nate, diciamo, non contemporaneamente, ma siano state delle cose composte in momenti comunque diversi, e poi sono state appunto unite, e casualmente sono state unite possiamo dirlo anche così bene, insomma, nel senso l'ha detto certo, lui, certo. L'ha detto lui. Insomma, a mio parere suonano bene. Diciamo che ha messo solamente l'input di quella che invece è la realtà, nel senso che questi tre pezzi si sono assorbiti molto bene fra loro e quindi danno una giusta, come dire, carica anche al disco. La scelta di averlo messo in quinta posizione su 7, da dove è partita? Beh, soprattutto dal fatto che comunque è un brano che ha anche un certo spessore, diciamo, quindi sì. Un peso. Affrontare l'ascolto di un brano tale, diciamo che è anche un impegno, insomma, no? E certo. Poi, se posso dire un'altra cosa, sì. C'è una logica di collegamento tra gli ultimi tre brani del disco, se vi siete accorti che sono praticamente collegati come fosse una traccia unica. Sì. Quindi il cosiddetto concept album, come si chiamava una volta. È il concept album, esattamente. Questo non è un vero e proprio concept album, nella accezione classica alla Pink Floyd, però ci sono molti spunti che ritornano, quindi questi tre brani, London Rain, A Milligram of Joy e Electric Stillness, sono collegati praticamente, e quindi era inevitabile anche metterli lì in quinta e sesta, settima posizione. Certo, quindi Former Life, Electric Stillness, certo. un titolo che fa a botte con quella che è la realtà appena descritta di London Rain, perché si vuole dire questa tranquillità elettrica e poi c'è stata invece questa esplosione in London Rain. Sì, London Rain è solo uno, insomma, dei temi del disco. In realtà poi il disco tratta molti altri temi. Si parla per esempio di solitudine, per esempio il brano Milligram of Joy è il racconto di una persona che ha perso qualcuno e viaggia alla ricerca, forse anche inutile, di questa persona. Quindi poi si parla anche d'amore nel brano Mesmerize, che è un po' una ballata, sì, sono... E c'è un testo sulla rinascita, che è poi il tema nostro, anche no, di vita precedente, che è quello di Sundering Jewel. Quindi il disco affronta varie tematiche. Quel Sundering Jewel che comincia con quella solo di piano, tanto per invitare all'ascolto pian pianino del disco, quasi un... Sì, quel preludio, quello è un preludio pianistico che in realtà di quel brano la cosa nata prima è proprio il tema che subentra a 2 minuti e mezzo, no? Che poi adesso sentiremo anche dal vivo. Sì, dal vivo, assolutamente, ecco. Dal vivo. Quel tema di Matteo, poi io ci ho anche costruito un preludio pianistico prima, mi sembrava bello, insomma, dare questo senso di quasi... di arrivo alla vita, visto che si parla di nascita, di rinascita. Benissimo, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che in Former Life sono venuti non solamente per farci ascoltare il disco, ma per farci ascoltare le loro musiche, le loro canzoni in versione live acustica, per cui hanno portato i loro strumenti musicali. E adesso cosa ascoltiamo allora, Matteo? Sundering Jewel. Un medley, diciamo, tra Sundering Jewel, che è il primo brano del disco, e l'ultimo brano, che è Electric Stillness. Esatto. Due brani appunto accomunati da questo tema che ritorna appunto nel primo e nell'ultimo brano. Bene, allora ce li ascoltiamo in diretta dagli studi di Blu Radio Veneto con i Former Life. Thank you. away than lose. I'd rather die than lose my faith in him. I have no faith but you. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato in diretta i Former Life con queste due canzoni messe insieme. Sono la traccia numero 1 e la traccia numero 7, quindi Sundering Jewel e ancora Electric Stillness. In tutti e due i pezzi figura poi le parole tradotte in italiano, appunto, di Former Life, quindi di vita precedente, ed è anche per questo che si legano tra loro, quindi la parte iniziale e la parte finale come tema conduttore di questo film in versione audio dei Former Life. E quindi è un invito, comunque, la numero 7, a tornare a riascoltare anche la numero 1. Esattamente, questa ciclicità che dice: aspetta che mi riascolto anche la 1 un attimo. Certo. Dobbiamo sottolineare, Flavio, finale, un finale epico. Sì. Un finale epico. Messo in evidenza chiaramente dal batterista, quel finale chiaramente certo. ha chiuso giustamente il pezzo. Il pezzo è un finale epico, si addice alla progressive, l'epicità. tra parentesi. Può essere una componente, sì. In senso positivo, assolutamente positivo. È da ricordare anche che Manuel, scusami Andrea, è da ricordare che Manuel si sta trattenendo molto. No? Sì, perché, esattamente. Perché chi ha avuto modo di vederlo sul palco dicono che non è poco scatenato. Sta anzi, soffrendo di più. Come un cane. Lo so, ti abbiamo messo in castigo Manuel questa sera. Comunque di solito nel palco ti meriti più spazio, in realtà ti abbiamo messo in un angolino. Poi naturalmente vedremo le foto dei castighi di Manuel anche all'interno della nostra pagina su Facebook e poi anche sul rimando che ci sarà all'interno del nostro link sul sito bluradioveneto.it. cliccando all'interno della notizia riguardante i Former Life si potranno vedere le foto ed ascoltare anche l'audio che stiamo registrando in questo momento. Dobbiamo sottolineare anche le voci, che sono importanti, non sono solo così, perché le voci nel progressive hanno un significato, il vostro hanno un significato proprio pesante, nel senso positivo del termine. Ci vogliono determinate trasformazioni delle voci, e le voci le avete trasformate perché dovete legare i diversi momenti del pezzo. Sì. Beh, come si diceva prima, una delle caratteristiche del progressive rock è proprio la voce, che molto spesso è tipica di un certo gruppo. Cioè ci sono, se noi pensiamo ai, per esempio, nomi come Genesis, no? Prima se ne parlava, sì, Underground certo. Generator. Peter Emmy aveva una voce incredibile. John Anderson. Wetton, dei King Crimson. Cioè ogni voce, ogni cantante aveva non solo voci diverse, ma anche una vocalità, modo di cantare tutto suo. Allora noi pensiamo che sia molto bello questo, perché dà anche un'identità poi al singolo gruppo. E sì, poi diciamo che io e Andrea abbiamo anche due voci che timbricamente sono, diciamo, molto, molto diverse. Sì, esatto. Loro, quindi la fusione delle due voci, soprattutto quando corrono parallelamente, risulta essere piacevole, diciamo, no? Quindi diciamo l'insieme, la fusione timbrica delle due voci funziona abbastanza, sicuramente funziona. Abbiamo sentito qualche secondo fa, questo è il punto appunto in Electric Stillness, cioè il punto in cui io e lui cantiamo proprio insieme, è forse uno dei non moltissimi momenti nel disco in cui abbiamo proprio un cantato parallelo, e anche proprio non è un caso che sia lì, no? Cioè verso la fine del disco l'ultima parte vocale è insieme a questo slancio, che è molto bello secondo me, quindi. Allora, diciamo, prima di formare i Former Life, anche se so che c'è una decennale amicizia, se non carriera professionale fatta insieme, so che voi vi occupate appunto di progressive in maniera veramente attiva, quindi attingete anche da quelle che sono le saccocce lasciate aperte da altri grandi mostri sacri della musica rock, che giusto, quando avevano la vostra età, sfornavano dei grandi successi. Quindi abbiamo già ricordato alcuni gruppi e sappiamo anche che siete protagonisti di cover band, in questo caso, di questi gruppi. Giusto? Allora, possiamo citare ad esempio i Pink Size. I Pink Size, sì. Appunto, è un tributo ai Pink Floyd, che ormai esiste da 6 anni, anche di più. E io, Matteo, Manuel, anche è entrato nella band da ormai un paio d'anni. Poi ci sono anche i Lincoln Quartet. Lincoln Quartet che fanno le musiche di... Dunque, principalmente Jethro Tull, ma non solo. Ultimamente abbiamo messo in piedi un progetto molto bello che include anche altri gruppi dell'epoca, e appunto con Lincoln Veronese, che è un po' il leader. E chi altri possiamo citare? Beh, sicuramente Aldo Tagliapietra. Beh, chiaramente. Cioè, anche perché di cui voi siete... Con cui collaboriamo da qualche mese, e in questo momento con Aldo siamo in un momento molto bello, molto importante, perché proprio discograficamente parlando è in uscita un nuovo album di inediti di Aldo, che si chiamerà Nella Pietra e nel Vento. Sì, siamo stati anche io e Maurizio al palco, al Teatro Toniolo, da dove appunto Aldo aveva presentato tutti i pezzi del suo nuovo lavoro, che comunque dovrebbe essere ormai sarà in vendita nei negozi a fine gennaio. Sì, tra poco. Quindi tra pochissimo, e voi avete collaborato anche per suonare in studio, no? Sì, noi siamo l'arrangiamento e la registrazione del disco. Cosa si respira a suonare vicino a un mostro sacro come Aldo Tagliapietra? Manuel. Vai Manuel. Manuel sta giungendo allo speaker. Anche lui. Arriva Manuel per esprimere le sue sensazioni. Diciamo che dopo 4 ore di sala prove non si respira una buona aria, però no, l'esperienza con Aldo è stata una cosa che a me ha cambiato un po' la vita, perché un anno fa partecipare alla reunion con Tagliapietra, Pagliuca e Marton è stato proprio un colpo grosso che non mi sarei mai aspettato, ed è arrivato così, e quindi è stata una gran bella cosa. Poi avere la possibilità di avere, nel momento in cui questo progetto è finito, la possibilità di condividere questa esperienza, questa collaborazione con un artista che ha vissuto il prog, quello vero, autentico, quello vero, autentico degli anni 70, esatto, assieme ai miei amici e colleghi fino a quel tempo lì, dei Pink Size, è stata veramente una cosa bellissima che mi ha dato entusiasmo, anche tranquillità, perché ero comunque circondato da ragazzini, e è stato più bello sostenere sì. Beh, effettivamente, esatto, sì. Hai abbassato di molto la media, sì, umano, in questo caso, no? Energia nuova, sì. Un po' di carica che... Sì, quindi tu sei stato protagonista attivo in quel concerto a Vicenza, no? A Vicenza, dove c'è stata, sì, quella famosa reunion dove c'era appunto il Marton, poi ancora Pagliuca. Pagliuca, ecco, e Aldo, ed è stata, diciamo, l'evento prog dell'anno del 2011, e che purtroppo è finito presto, ma è stato comunque, per me è stata una grande esperienza che ricorderò sempre. Però adesso, diciamo che il fatto di aver lavorato e contribuito alla realizzazione dell'album solista di Aldo Tagliapietra è una cosa ancora più importante, perché comunque ci abbiamo messo del nostro, e quindi è un qualcosa che rimane, non è solo... Quindi c'è un po' di former life. C'è un po' di, sì. Ma poi è stato molto bello perché Aldo ci ha lasciato veramente uno spazio importante nel disco per collaborare agli arrangiamenti, alla stesura dei brani. Quindi nell'ascoltarlo proprio noi ci ricordiamo di quando le abbiamo messe insieme queste parti, di come le abbiamo trasformate. Molto bello, molto bello. Quindi siamo diventati protagonisti assieme ad Aldo, praticamente. Possiamo dire così, sì. Sì. Benissimo, e so che anche aprite molte volte i concerti di Aldo Tagliapietra facendo ascoltare quelle che sono le musiche, sì, di Former Life. Quando possibile, sì, è già successo 2 volte, abbiamo aperto in provincia di Verona al club Il Giardino, e poi a Pordenone al deposito Giordani abbiamo fatto per 2 volte i set Former Life prima di Aldo. Speriamo che ricapiti chiaramente di nuovo un'occasione. Club Il Giardino, dove ritorneremo il prossimo 11 febbraio. Pubblicità. Benissimo. Pubblicità. Allora, non c'è la pubblicità, ma c'è la possibilità di suonare un altro pezzo live. Sì. Cosa facciamo adesso? Ricordiamo, scusami, anche, sì, la, prego, data scusa, di Aldo Tagliapietra, sì, che presenterà il disco il 4 febbraio a Giardino, quindi, ecco, che è un evento comunque. Sì, quattro noi abbiamo già prenotato una settimana d'albergo dentro il Club Il Giardino, in quanto suoneremo sia il 4 che l'11. Il 4 febbraio con Aldo e l'11 febbraio appunto Former Life. Benissimo. Allora, facciamo sentire facciamo sentire un brano strumentale, sì, che si chiama Hijacked, ovvero dirottato. È il secondo brano del disco. E niente, siamo pronti. Ok. Thank you. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E in questo caso possiamo parlare di un classico finale sorpresa, no? Allora, abbiamo ascoltato un altro pezzo dei Former Life da Electric Stillness, questo è il loro lavoro, è formato da 7 tracce, però 7 tracce che durano molto e sono delle suite musicali davvero importanti. In questo caso abbiamo ascoltato la traccia numero 2, Andrea. Sì. Hijacked. Esattamente. E quindi un qualcosa di forte ancora. Sì, è un dirottamento. Funky. Può essere inteso. Sì, leggermente funky, dai. Questo è un pezzo che si distingue molto dagli altri, è chiaro, no? I critici l'hanno sparato come Brand X. Io invece, Flavio sarà sicuramente soddisfatto. A me ricordava molto il Gentle Giant di Aquarium the Taste. In alcuni momenti. Con questo tuo danzare con la chitarra, a me ricordava molto Lusinga, sicuramente. Gentle Giant, un gruppo straordinario. Anche un pochettino Andy Summers. Andy Summers. Però Gentle Giant di più di Brand X, a mio parere. Sono miei pareri, chiaramente. Vanno così e basta. Però Brand X c'era. Sì, Brand X era, perché la fusion c'era. Soprattutto c'era. Assolutamente sì. È anche un brano che ha delle sonorità fusion, che il sassofono dà quel senso di un po' di fusion. No, ci fa piacere che si abbiano paragonati a nomi sinceramente molto grandi e che spesso ci lusingano e anche ci stupiscono un po'. Bene. Quindi nel disco si diceva c'è il sassofono, chi è che lo suona? Il sassofono l'ho suonato io. Ah, bene. Non l'hai portato stasera? No, non l'ho portato perché è praticamente un computer. Ah, ho capito. È un particolare sassofono con i tasti bianchi e neri. Ah, perfetto. Ho capito. Sì, no, no. Sembra quasi vero. No, è sotto. Anche la voce, anche la voce. Vabbè. Allora, noi stiamo imparando a conoscere i Former Life, però per saperne di più, se ci siamo persi di dire qualcosa, c'è sempre un sito internet che ci viene in aiuto. Certo, il nostro sito ufficiale è www.theformerlife.com oppure su Facebook basta cercare The Former Life, anche in questo caso. E in entrambe le pagine ci sono informazioni, foto, link a concerti, eccetera. Musica. E anche musica, testi, anche la possibilità di ascolto dei brani online. E di acquistare il CD. Soprattutto quello, soprattutto quello fondamentale. Ecco, allora, diciamo, come si fa ad ascoltare il CD? Allora, siete appoggiati a qualche distributrice in particolare o è tutto di tasca vostra? Momentaneamente è tutto interamente autoprodotto dalla realizzazione della registrazione fatta tra camera mia e la sua taverna. Casalingo, di più di così non si può. Non si può. Eccetto la batteria, che chiaramente per motivi di spazio è stata registrata in uno studio. Dopodiché la stampa e anche la distribuzione sono autogestite. E quindi per prendere il disco materialmente o scaricare le tracce in maniera legale diciamo che dal sito internet c'è la possibilità attraverso appunto la zona, diciamo, acquisto la zona shopping, la zona acquisto online del disco, appunto c'è la possibilità di acquistare il disco tramite pagamento PayPal o bonifico. Sì, insomma, comunque per posta, no? Poi noi è tutto spiegato in modo preciso e particolare, quindi nessuno si perderà all'interno del nostro sito. Benissimo, magari metti in sottofondo le musiche che volete far ascoltare, così viene esatto, viene più facile. E invece per ascoltare i brani, molto più semplicemente, basta cercare The Former Life su Facebook e appunto entrare nella nostra pagina Facebook, entrare nel lettore multimediale Bandpage e da lì ascoltare tutti i brani del disco. Oppure, se mi permetti, sì, direttamente dal sito si può linkare. C'è il link al Bandpage, esatto, ancora più semplice. Quindi sul sito si può fare tutto. Tutti al sito e poi... Ogni tanto sentiamo anche la voce di Carlo, sì, ogni tanto, per confermare che c'è. Soprattutto perché lui, sono l'anziano del gruppo. Siccome lui ci ha curato anche il sito web, sì. Ecco perché è intervenuto in quel momento, si sentiva chiamato in causa. Vero Carlo? Esatto. Benissimo, allora adesso abbiamo parlato di come si fa a entrare in possesso del disco. Ricordiamo che oltre alle belle musiche, alle belle canzoni, ci sono, c'è anche una cosa veramente particolare. Vogliamo parlare un attimo di questo, ovvero la copertina del disco. La copertina del disco che si completa con il suo interno, diciamo, in un certo senso. Sì, sì. Quindi partiamo da un elemento esterno che sembra stia camminando in una bufera, sì, da solo. C'è una persona che sta camminando, per chi, diciamo, non avesse visto, la descrivo brevemente. Sì. C'è una persona di spalle che sta camminando, comunque correndo in una strada di una grande città, in una specie di bufera di neve, comunque in un'atmosfera un po' burrascoso. E poi all'interno del disco, una volta tolto il CD, c'è la stessa immagine però rielaborata in modo un po' più psichedelico, con l'immagine sdoppiata e dei colori più particolari, e ci piaceva, insomma, dare questa doppia versione di quella immagine, anche perché sembra la former life che sta seguendo la present life. Poi un piccolo particolare che può essere colto è proprio il fatto che su questa immagine ci sono delle gocce, sembrano delle gocce, sì, no? Sì. Che possono essere una sorta di obiettivo bagnato da questa bufera di neve, quindi una sorta di vita vista da un'altra vita, praticamente. Esatto. Attraverso come l'obiettivo. Come uno spettatore che riguarda indietro o in avanti, no? Attraverso questa specie di obiettivo. Ecco, e poi nel finale, invece, nella parte dietro, scompaiono tutti. Sì, no, esatto. Tra l'altro il libretto è fatto in modo, come poi molto spesso succedeva, sì, con i vinili, no? Sì. Che aprendolo e capovolgendolo, quindi al dorso in su, l'immagine è in realtà un'immagine unica. Quindi sì, questa strada che poi a sinistra è senza questa persona. Eccolo lì, ecco, ce la stiamo benissimo, fronte. L'abbiamo aperto. Ringraziamo, scusami, Federico Bazzo, un amico che ci, sì, ha dato un contributo importantissimo. Per grazie la Fede. Ciao Fede, grazie. Ecco, il tutto comincia anche con il libricino che avete, con una foreword, quindi con una prefazione, sì, di quello che sarà il disco, che sembra comunque anche in versione poesia. Sì, anche questa qui è una piccola poesia praticamente introduttiva che ho composto e riassume un po' il senso della former life, quindi tra l'altro in questa poesia viene citata una strada nevosa chiamata tempo, mm-hmm, Snowy Road Called Time, che quindi è un ulteriore riferimento all'immagine di copertina, come se ci fosse un turbinare del tempo e questo nostro viaggiare in avanti o indietro, no? Sì, attraverso di esso. Visto i testi li scrivi tu, Andrea? I testi sono miei. Parti dall'italiano o direttamente componi in inglese? Praticamente sempre parto dall'inglese. E come tra l'altro ci hanno chiesto in molti, questa è una scelta puramente stilistica, cioè noi non abbiamo niente contro la nostra lingua, assolutamente. E per questo genere, nel nostro caso, è stato più facile, no? più semplice pensare i testi, ma più che i testi, proprio la vocalità, no? Cioè, sì, un discorso proprio di suono delle parole, no? Le linee vocali con l'inglese. All'inglese, praticamente. Sì. Mm-hmm. Andate così, comunque come avete forse, abbiamo forse già detto, nel sito ci sono anche le traduzioni, quindi chi fosse interessato può scoprire di che cosa si parla. Bene, allora andiamo ad ascoltare ancora qualcosa, sempre in versione live, visto che sono venuti qua ben carichi former life. Cosa ci fate ascoltare adesso? Dunque, la prossima è la traccia numero 4 del disco, che è, come si diceva prima, forse la ballata che abbiamo scelto noi per lanciare il prodotto da un mesetto a sta parte, la mettiamo in giro, cioè durante la giornata, per far sentire chiaramente. Bene, vi ringraziamo. E questa appunto è un po' la ballata dell'album, insomma il brano più acustico, e si intitola Mesmer Eyes. Stay there in between a foreign daylight has come. No people show me their sympathy. Love is hate in disguise. when they stole fragments from the whole. They expected me to own the missing ones, the things we proclaimed to the rays of the midnight sun, loose and entwined like two exiles that made their return. Came the longest day when alleys darkened, and though I tried to ignore the siren's call, I failed. And meanwhile we flyers got back to the ground. You made me shudder and make seem heavenly my thrills. It's all about a million mistakes made, a farewell to Deleon. Is there a place to settle in, to start back and cancel all we've been? The long shade of guilt. And all the things we proclaim to the rays of the midnight sun, they could not fail like two exiles that fail their return. You expected me to find the missing frame, and I smiled, for I knew that missing frame was me. And there now the light in your mesmerized and mine, you make me shudder. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Veramente atmosfere magnifiche stiamo vivendo questa sera assieme ai Former Life, assieme al loro nuovo lavoro che si intitola Electric Stillness e insieme a questa deliziosa Mesmerize. E ne approfitto per salutare anche un'ascoltatrice, ci sta ascoltando dalla Sardegna, lei si chiama Dolly e ha detto i Former Life meravigliosi, quindi grazie Dolly, grazie mille, grazie pian pianino vi state facendo strada, quindi dalla Sardegna si fa presto ad arrivare anche ad altri lidi. Possiamo sottolineare di questo perché abbiamo scelto questo pezzo, gli altri pezzi sono tutti interessanti, però io l'ho scelto perché c'è proprio una ricerca della melodia in questo pezzo, secondo me, non so se siete d'accordo. Decisamente. Sì, sì, sì, pezzo appunto relativamente più semplice degli relativamente ecco. Anche se qui stasera in questo momento non l'hai fatto proprio semplice, secondo me l'hai accentuata no, ma perché comunque quando suoni un pezzo dal vivo molto spesso c'è un'enfasi diversa esattamente sul disco che ti porta a farla così, insomma, quindi perché noi sentiamo è giusto che sia così la nostra musica e quindi assolutamente è un'esclusiva sentire per la prima volta via radio le atmosfere live dei Former Life e ci fa un grande onore avere qui appunto i Former Life in questa serata. Grazie mille. Dal vivo accentuate, qui è un'inversione assolutamente acustica, ma dal vivo cosa date, che impulso date il pezzo? Vai. Allora, Matteo, dai, vai Matteo. Poi c'è anche Manu che vorrebbe dire qualcosa. Manu, esatto, si vede. Poi c'è anche Carlo. Quindi. Allora, questo è un disco che è estremamente zeppo di arrangiamenti, di suoni, di strumenti, tantissime cose. Di conseguenza, proporlo la prima volta live è stata una sorta di sfida per noi. Scommessa, insomma, vinta sì, assolutamente. Diciamo vinta, o comunque il live ci ha dato delle emozioni molto belle e però molto diverse anche da quelle che ci dà invece l'ascolto del disco. E, live... cioè il disco live ha una resa molto molto efficace, secondo molto noi. Molto intensa. Anche perché comunque tutte le dinamiche che troviamo all'interno dei brani, che comunque sono molte, e vengono altamente enfatizzate certo. Durante i live. E quindi cioè, per noi è stata veramente una scommessa vinta alla grande, insomma. Perché risulta difficile, abbastanza complesso fare un live di un disco simile, secondo sì, me. Però, sì, però... Posso? Sì, dimmi. Secondo noi è difficile, però nel momento in cui tu hai ormai la musica, insomma, no? nel sangue, ce l'hai proprio assimilata al massimo, è quasi meno il problema minore è ricordarsi il brano, è proprio esprimerti, no? Cioè dargli un'energia. Quello, e noi abbiamo scoperto proprio al debutto, che fu l'8 ottobre, sempre al Club Il Giardino, e abbiamo scoperto quella sera che è un'emozione pazzesca e che ci risulta anche abbastanza facile, no? dare vita nuova a questi brani dal vivo. Quindi sì, volevo anche aggiungere proprio per il fatto che le cose da far sentire in questi brani erano molte. Se si voleva comunque rimanere fedeli, insomma, a quello che era il suono dell'album. E la nostra seconda paura era anche quella di allargare un po' troppo, o no? No, diciamo quella di non goderci la nostra musica mentre la suonavamo, perché comunque pensare di suonare e comunque di cantare contemporaneamente tutte queste cose un pochettino ci spaventava. Certo. E diciamo che comunque ce la siamo cavata. È andata bene anche questa. Se posso dire un'ultima cosa, adesso c'è un'altra sfida che ci aspetta, sarà il 3 marzo. Praticamente, perché noi il 3 marzo in provincia di Savona a Cairo Montenotte suoneremo per una rassegna musicale diciamo, il cui direttore artistico è Athos Enrile, un giornalista che salutiamo e ringraziamo tantissimo. E in quell'occasione i Former Life proporranno anche dei brani inediti dal vivo per la prima volta, e quella è la nuova sfida, quindi, okay. Benissimo. Che stiamo già curando. E quindi vuol dire che c'è proprio anche una prossima uscita. Assolutamente. Ah, benissimo, quindi ci prenotiamo anche per il prossimo disco, voglio dire, visto benissimo. Che siamo amanti proprio di questo genere, quindi The Former Life, Electric Stillness. Vediamo di capire un attimino, prima abbiamo fatto il nome di mostri sacri che vi hanno un attimino aiutato ad entrare in questo mondo, dapprima ascoltandoli e poi facendoli propri anche muniti di strumenti musicali. Ma extra prog, quali sono i vostri ascolti, diciamo, normali, definiamoli così, nel senso musica pop o altra musica rock, ovvero quali sono i vostri, diciamo, artisti, non di riferimento, perché quelli li abbiamo già capiti, ma altri artisti che stimate all'interno del panorama musicale più di altri? Beh, io non so, facciamo il giro. Sì, facciamo il giro, sì, così. Allora, io per esempio personalmente amo moltissimo la musica cinematografica, quindi le colonne sonore. Infatti ci sono alcuni punti nei nostri brani, quelli di Electric Stillness e anche in quelli che stanno per arrivare, che hanno un po' delle atmosfere, no? Quasi a volte cinematografiche. Io per esempio amo Angelo Badalamenti, sì, che è un compositore italo-americano. Twin Peaks, praticamente. Esattamente. Lo amiamo. Lo amiamo. Lui è uno dei miei miti assoluti, perché ha una sua formula semplice, ma che ti emoziona con tre note, e quella veramente per me, o Ennio Morricone, un altro per citarlo. E poi vabbè, appunto, il progressive ne abbiamo già parlato. Io sono anche un classic rock tipo psichedelia, nel senso i Cream per me sono una cosa pazzesca. Voi siete in quattro, non siete in tre, ma va bene lo stesso. Cream, poi Led Zeppelin, quindi quel filone, ok, certo, quasi blues. Psichedelia mi piace moltissimo. E voi cosa ne dite? Beh, allora, sentiamo Matteo dai. Ok, io sono chitarrista di conseguenza avendo studiato mi sono cimentato anche, diciamo, in musica prettamente chitarristica, diciamo, quindi tutti i vari chitarristi anche tecnici, quindi Steve Vai, Joe Satriani, Steve Burns. Diciamo, ascolti che ho fatto in epoca di studi, sì, non che ora non studi più, però diciamo perché mi ritornava anche utile studiarli per un discorso appunto di perché ero un chitarrista in studi. E sono molto amante anche del sound moderno e soprattutto tendente anche, se vogliamo dire, all'elettronica, quindi amo moltissimo i Radiohead, per esempio, un gruppo che mi piace moltissimo, quindi nel mio modo di vedere gli arrangiamenti e la registrazione cerco sempre di trovare la migliore sintesi, fare la migliore sintesi fra un'armonia che può avvicinarsi alla musica anni 70, quindi un'armonia molto varia, molto ariosa, non scontata, legata però molto strettamente allo sfruttamento di un sound moderno, quindi di ciò che la tecnologia audio comunque ci offre in questi tempi, che è estremamente vasto, nel senso che ormai chiunque abbia un attimo di mestiere, un attimo di estro, diciamo, può tranquillamente fare ciò che vuole, appunto, in camera sua, che proprio crearsi un proprio sound, perché tu hai il computer con mille plugin, software, e tu ti crei il tuo sound che pesca da, allora, questo plugin anni 70, questo elettronico futuristico, e ti fai il tuo sound personale praticamente. Vediamo adesso Carlo, il bassista della band. Allora, io fondamentalmente nasco, sono abbastanza vicino, sì. Nasco con i Merillion. Fish, allora, Fish, sì, l'enorme, esatto, Fish, esatto. Nel lontano 85, quando mi fecero ascoltare questo gruppo, e di lì poi mi sono avvicinato immediatamente ai Genesis. Certo. Perché c'era avvicinare. Era forse questa la canzone che ti ha fatto avvicinare. Eccoli qua. Bella. Esatto, è proprio questa. Sì, è quella più conosciuta. Sì. E poi per una casualità, perché dicevano che avevo la voce simile a quella di Sting, mi sono avvicinato a Sting, ma non perché mi avesse colpito particolarmente, anche se nel lontano, nei primi anni 80, quando da solista fece Russian, ero appassionato di quel pezzo, e più avanti con un gruppo poi mi mise a suonare anche Sting, e di lì c'è stata un po' un'evoluzione, quindi ho cominciato a suonare la chitarra, ho cantato, e poi sono passato al basso suonando e cantando Sting. Ecco, diciamo che questi sono prevalentemente le mie influenze. Benissimo. Manuel, bene, adesso tocca a Manuel. Manuel che si è preparato finora per... In realtà non mi sono preparato, perché sono molto... Sì. Ho avuto un percorso un po' diverso da loro. Sono partito dalle band più rockettare, più sanguigne degli anni 70, Deep Purple, Led Zeppelin. I Deep Purple soprattutto sono stati proprio... Ian Paice è stato il mio... Tuo nome tutelare, sì. Dai, tuo maestro. E quindi poi in futuro, poi successivamente mi sono avvicinato a Jethro Tull, a Clive Bunker in particolare, quindi e a quel mondo rock blues degli anni 70, poi successivamente ai Toto, un gran band rock, funk, fusion. Fortissimo. E poi a tutto il pop anche, mi piace spaziare dal rock al prog al pop moderno, quindi sia italiano che internazionale, e questo credo che sia stato anche un modo per imparare a suonare più generi, quindi diventare versatile, e senza volerlo mi sono ritrovato a interpretare vari stili musicali. Non avrei mai pensato di suonare in una band prog come quella dei Former Life, che mi hanno fatto sudare non poco, qualche mese fa. Ho detto sì in maniera così, sì vengo, tanto facile. Dovevo entrare come manager io in questa band. Sì, poi sì, alla fine hanno visto che suonavo e ho detto vabbè. Sì. No, io vorrei dire che Carlo e Manuel hanno fatto un lavoro pazzesco, veramente di assimilazione delle parti, cioè loro non è che le eseguono in modo, capisci, meccanico, proprio le hanno fatte loro, e la resa dal vivo di cui si parlava prima è merito anche e soprattutto di loro due, che danno proprio una spinta pazzesca. L'altra cosa, Manuel, tu hai suonato anche con Goran Kuzminac, quindi musica... totalmente diversa in questo caso. Cantatoriale, folk, un po'. Sì, ho avuto la fortuna di collaborare con Goran dal vivo un anno fa, due anni fa, ed è stata una bella sensazione, perché lui è un artista, è uno che riesce a trasmettere molto bene quello che vuole dire, e in maniera semplice però efficace. Il pezzo Stasera l'aria è fresca è proprio la testimonianza della forza di Goran, e quindi ho avuto questo onore, diciamo. Bene, allora abbiamo concluso il giro, direi di prendere un po' di fiato ascoltando un pezzo invece da disco, prima di tornare per quelli che sono i saluti, li faremo un po' lunghi perché ci fa piacere ancora continuare la conversazione, comunque diamo spazio alla traccia numero 3, che poi torneremo a commentare insieme, si intitola Belong to the Stars, Former Life, qui a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. It's when eyes are closing, and so is the mind. When my eyelids falter, leaving me delighted but blind. But scenes of an ancient shipwreck rush to my hazy memory. The way it always starts implies a way. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo davvero bello, Belong to the Stars, quindi un'appartenenza alle stelle che vi vede protagonisti anche in questa serata all'interno della trasmissione di Blu Radio Veneto, Blu Radio Sera per l'appunto. Allora, ancora complimenti ai Former Life, perché veramente questo è un disco assolutamente da avere. E non lo grazie. Dico per una pubblicità ulteriore al disco, ma proprio perché è una cosa sincera e davvero interessata questa. Grazie mille. Chi fosse interessato, certo, appunto, può semplicemente tramite il nostro sito web, che è www.theformerlife.com, e comprarlo. C'è il menu ordina CD, tutto molto semplice, per posta. Benissimo. Belong to the Stars, vediamo un attimino la storia che ha caratterizzato questo pezzo. Questo è un pezzo abbastanza vecchio, giusto? Matteo risale a un bel po' di anni fa. Forse a livello di materiale contenuto in questo pezzo si va indietro di 5-6 anni. Diciamo che l'aneddoto è che io mi sono diplomato in chitarra elettrica, sì, con una versione strumentale di questo brano nel lontano 2007. Esattamente. Quindi poi l'abbiamo un po' rielaborato, ci abbiamo messo le voci, i testi, è diventato questo pezzo, anche con quella parte finale, no? Il crescendo, che secondo noi è uno dei punti più belli dell'album. Certamente, poi una parte finale, gli ultimi momenti del pezzo. Tu hai parlato di Badalamenti, è un pezzo cinematografico all'ultimo momento, assolutamente vicino a quel, un po' dark, un po' oscuro, secondo me si avvicinava a Badalamenti alla fine. Beh, ti ringrazio, sì, gli ultimissimi momenti. Gli ultimissimi momenti, sì, esattamente. La quiete dopo la tempesta. Esattamente, è proprio quello. Poi è bello perché dopo quel pezzo, guarda caso, inizia Mesmerize, che è un brano molto più delicato, quindi c'è un contrasto anche nell'ascolto del disco. Secondo noi è un disco che si fa ascoltare anche tutto di seguito, perché insomma i pezzi sono molto vari nella successione. È un consiglio sincero. È un consiglio spassionato. Sì, sì, l'abbiamo sentito e accusato con le nostre orecchie questo invito a... Forse è brutto dire acquistare, ma fare proprio questo disco, perché A scegliere di ascoltarlo, ma per ascoltarlo naturalmente averlo a casa. Certo. Ecco. Benissimo, allora ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che questa trasmissione, per chi è arrivato tardi, per chi vuole sentire i commenti relativi alla musica dei Former Life, può naturalmente accedere nei prossimi giorni all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, e all'interno della notizia riservata ai Former Life c'è la possibilità di scaricare anche il podcast sonoro di questa trasmissione, oltre a vedere quelle che sono state le 2-3 foto scattate soprattutto al batterista Manuel. Esattamente. gioisce certo. L'immagine l'immagine Flavio, immagine. Salutiamo un momento il nostro direttore artistico, sì, che praticamente crea sempre questi eventi. Quindi Alberto, salutiamo Prisco. Alberto Prisco, e niente, lo ringraziamo ancora per questa collaborazione così importante con la nostra radio. Allora, Former Life, noi siamo arrivati al momento dei saluti, purtroppo, però c'è già anche una, come dire, una promessa di ritornare con un nuovo disco, visto che inediti qua non ce ne sono stati. Però ce ne saranno, e però come? Ce ne saranno. Allora va bene, allora li aspetteremo. Innanzitutto, allora, gli inediti prossimi, ricordiamo dove si possono ascoltare. Dunque, sì, così con questa occasione ricordiamo i nostri prossimi concerti. Sì, certo. Allora, proprio in ordine di tempo, abbiamo l'11 febbraio e al club Il Giardino, che è a Lugagnano di Sona, in provincia di Verona, dell'amico Gianprimo Zorzan, salutiamo pure lui che è veramente un nostro super amico, e in quell'occasione divideremo la serata con i Collage, che è un ottimo gruppo sempre della nostra città, di Federico Gava, per intenderci, che è appunto un nostro amico. 11 febbraio, poi il 3 marzo a Cairo Montenotte, provincia di Savona, al Teatro di Cairo, per la rassegna Oltre la Musica, e appunto con direzione artistica di Atos e Enrile. Questi sono i due prossimi concerti in programma. In occasione appunto del concerto di Cairo ci saranno dei brani nuovi, 3-4 brani probabilmente, quindi siete invitati tutti. Assolutamente, vedremo di non prenderci impegni per arrivare lì ad ascoltare questi vostri brani. E allora, ancora una volta vi ringraziamo, un grazie a Carlo Scalette al basso, un grazie a Matteo Ballarini alle chitarre, un grazie a Manuel Smagnotto alla batteria, in questo caso molto... molto ridotta, diciamo, ridotta minima, ecco. Un grazie ancora ad Andrea De Nardi alle tastiere. Grazie per essere stati con noi come Former Life. Posso fare solo un saluto? Sì, certo. No, vorrei salutare la capo fans dei Former Life, che è Luana De Nardi, che è praticamente mia zia, esattamente. Sì, sì, lei certo. è la fan numero ciao, uno. Ciao Luana. Ci sta ascoltando, ciao. Grande. Sì, che si vede affacciata sempre su Facebook. C'è sempre, Luana. Sia il gruppo con cui suoniamo, lei ci sarà. E salutiamo anche i nostri genitori. I nostri, che certo, sicuramente. Sì, i soliti italiani. Italiani, il mammoni. Ecco, ciao mamma, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao zia. Benissimo, quindi abbiamo ciao, capito zia. Che dietro la professionalità, ciao, dietro la professionalità dei Former Life c'è anche ancora una forma molto legata alla famiglia, davvero simpatica. Vabbè. Finale a sorpresa, quindi, in questo caso. Sì. Allora, prima di andare, comunque c'è spazio per un ultimo brano live. Cosa ci proponete? Certo, questo brano si chiama A Milligram of Joy, un milligrammo di gioia. È un estratto dal brano, non è proprio nella versione intera, però è... insomma una versione unplugged. Benissimo, allora io e Maurizio salutiamo, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, benissimo, il solito grande e caloroso ciao, buona serata a tutti, vi lasciamo ancora con l'ultimo pezzo dei Former Life, ancora grazie ragazzi e a presto. Grazie a voi, grazie mille, ciao, grazie. Ciao, grazie. Chasing your traces day by day, the milligram honcho, it's what remains of you. I've gone straight into the source of day and night, with all of my senses to feel you endlessly. So looking where I am now, for you may see another side of me. Cause I'm at the place where all of my fears and Blu Radio Veneto.